Pubblico zero, volevo sapere perché la gente si chiederà. Pubblico zero. Innumerevoli persone si chiederanno. Allora, come pubblico zero può essere inteso in due modi: pubblico zero davanti nessuno, quindi noi siamo i migliori. Oppure pubblico zero davanti nessuno. Vabbè, modesto. In quanto quando ci siamo noi non c'è più nessuno davanti come pubblico. Pubblico zero davanti nessuno! Allora. Sinceramente, qua, noi vogliamo sapere qual è la prima o la seconda. E un insieme di conglomerato, hai capito? Abbiamo qua un comico. Dicevano cosa offre? Dicevano offre il nero. Il nero è un'altra qualità di nero, un po' rancidello, però volendo stringendo i denti. Ecco perché la nostra filosofia è questa: il vino buono non bisogna berlo, bisogna bere solo il vino rancidello che ti fa fare dopo le mosse di breakdance per l'acidume che ti scappa.